L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Dopo più di un mese, eccoci qui di nuovo con l'ottavo giorno, quindi benvenuti cari ascoltatori. Siamo pronti, come sempre, ad offrirvi una sintesi che ci auguriamo sia il più esauriente possibile dei fatti della settimana. Naturalmente sarà anche una sintesi in parte arbitraria, perché pur sempre una scelta, una cernita di queste notizie stesse dobbiamo pur farla. Lo spirito comunque della trasmissione è lo stesso della prima edizione, quindi vi racconteremo i fatti principali da sabato scorso, 5 settembre, fino a ieri, venerdì 11 settembre, attraverso i servizi trasmessi nei GR della radio, di Radio 24 in questa settimana. La formula dunque è immutata, ma ci saranno invece anche delle piccole novità. Una importante riguarda l'orario, perché siamo in onda non più alle 10 di mattina ma alle 9 del sabato. Le altre invece le scoprirete strada facendo tra pochi minuti. E allora cominciamo il nostro racconto, le cronache di questa settimana, dalla notizia direi che più di tutte forse è rimasta impressa nel cuore, nella mente della gente. Direi che se ci facesse un sondaggio sicuramente in più direbbero che la notizia che ha colpito maggiormente è la morte improvvisa, istantanea, del grande Mike Bongiorno. In settimana si sono sprecati aggettivi, superlativi, sostantivi di ogni tipo, metafore per celebrare quello che è stato senza ombra di dubbio il personaggio più importante della TV italiana. Bongiorno muore martedì 8 settembre, tra l'altro non è un caso forse, lui che ha fatto anche la resistenza è stato in carcere a San Vittore con Montanelli. Riascoltiamo allora il resoconto in poco più di un minuto, difficilissimo, della sua infinita carriera televisiva con Paolo Panceri. Amici ascoltatori, allegria! Impossibile confonderlo. È il marchio di fabbrica di Mike Bongiorno, un'esclamazione che è stata anche un augurio per milioni di persone e uno stile di vita per il presentatore, soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, quella a fianco di Fiorello. Una carriera che si è interrotta ieri, dopo 60 anni di successi. Mike Bongiorno è morto a 85 anni a Monte Carlo per un infarto. Si trovava nel Principato per una breve vacanza, prima di iniziare un nuovo programma televisivo. Impossibile dar conto in poche parole della carriera di Mike Bongiorno. È stato conduttore, autore, partigiano, scrittore, scalatore e produttore. Celeberrime le gaffe con i concorrenti delle sue tantissime trasmissioni. Tra queste rischia tutto, di cui abbiamo sentito la sigla e Lascia ora doppia, hanno segnato la storia del piccolo schermo. Mike Bongiorno è stato anche uno dei pionieri della TV commerciale, con il passaggio nel 1978 dalla Rai a Telemilano, un'emittente locale di cui era editore Silvio Berlusconi, che sarebbe diventata Canale 5. E tra poche settimane Mike Bongiorno avrebbe dovuto dare avvio alla sua nuova avventura televisiva su Sky, un programma che, giocando proprio con il nome Rischia Tutto, aveva chiamato Ri-Sky Tutto. Tra pochi minuti alle 10 a Milano ci saranno i funerali di Stato di Mike Bongiorno. Allora, per chiudere questo spazio iniziale dedicato alla scomparsa del grande Mike, riascoltiamo l'epigrafe, che poi in realtà è un vero e proprio monumento che ha fatto a Mike Gianluca Nicoletti. È singolare pensare che un uomo che ha unito praticamente quattro generazioni di televisione italiana oggi è destinato a rimanere comunque nella memoria collettiva ancora chissà per quanti anni. Sembra assurdo, ma che Bongiorno, in fondo l'icona più antica, più vetusta della nostra televisione, rappresenta il prototipo di quella che oggi è la televisione italiana. E molti lo ricorderanno, molti ne parleranno, ci saranno degli speciali televisivi, il grande tormentone del coccodrillo televisivo parlerà ancora per tanti anni di Mike Bongiorno, probabilmente rimarrà ancora nella memoria dei tanti comici che lo imiteranno, le tante persone che lo prenderanno come modello, ma forse l'immagine che di lui, almeno a me, rimane più impressa è quella ultima, è quella dello spot del lancio del programma con Sky, che non ha mai fatto, quello assieme a Fiorello, in cui già anziano, già con una giacca che non è solamente in stile rispetto alla sua maniera di porsi in televisione, sembra una vecchia giacca stazionata, già pronta per l'ultimo viaggio. Fiorello scherza, ride con lui, fa la sua ultima imitazione, si allontana facendo rischio, cavallino, e facendo quelle che sono le parole mortali che renderanno questa fulgida icona della nostra televisione italiana, in fondo l'unica cosa degna di essere ricordata di questi 50 anni televisivi. In settimana abbiamo anche letto e ascoltato molte notizie attorno all'influenza A, per qualcuno una minaccia serissima, addirittura in Cina sono già pronti con le vaccinazioni, si presume in totale di vaccinare addirittura 65 milioni di persone, che non sono poi tantissime se si pensa che in Cina abita più di un miliardo e tre di persone, però insomma sono pur sempre più di tutti gli italiani messi insieme. Anche in Italia si parla di vaccinazione di massa e poi c'è anche un piccolo scontro politico sull'opportunità o meno di chiudere, di ritardare, meglio dire, l'apertura delle scuole, che tra l'altro invece arriverà a giorni, per evitare scomodi contagi. La cronaca di lunedì affidata a Paolo Panceri. I casi di influenza A nel nostro paese sono per ora pochi e circoscritti, quindi non di gravità tale da prevedere un rinvio dell'inizio delle lezioni nelle scuole. A spiegarlo è il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, che ha ribadito la regolarità del calendario scolastico a una settimana dall'apertura delle aule. Se però in una scuola si fossero verificati casi di persone che hanno contratto il virus H1N1, ha spiegato ancora il ministro, ci sarà un controllo dell'autorità sanitaria, un coinvolgimento del dirigente scolastico del comune e si provvederà solo in quel caso la chiusura della scuola. Resta invece l'eventualità di allungare la durata delle vacanze natalizie, che sono previste proprio in concomitanza con il picco invernale dell'influenza A ipotizzato dai virologi. Nel frattempo il liceo scientifico Newton di Roma cerca come può di evitare il contagio tra gli alunni e con una circolare ha vietato da ottobre il bacio fra gli studenti dell'istituto per evitare il propagarsi del virus H1N1. Dunque pochi giorni ancora e tra pochissimo la scuola riaprirà la sua stagione 2009-2010 con, direi, problemi ben maggiori rispetto all'influenza A, una parola su tutti, precari. Però insomma basta soltanto il sospetto che questa influenza possa in qualche modo essere pericolosissima per arrivare anche a delle precauzioni che direi sono tipiche italiane, anzi direi che sono tipiche di Napoli. Infatti soltanto a Napoli si poteva mettere in mezzo persino San Gennaro con la storia dell'influenza A. Sentiamo proprio dal capoluogo campano la cronaca di Paolo Picone. Niente baci alla teca con il sangue di San Gennaro che sarà portato in processione il 19 settembre. La decisione è stata presa dalla deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Neppure le autorità che per tradizione baciano la teca a miracolo compiuto a maggio e settembre potranno esprimere l'atto di devozione al santo protettore della città. Il provvedimento non è nuovo dato che ha precedenti illustri negli anni del colera e per l'allarme aviaria. Ma il prossimo 19 settembre la teca che contiene le ampolle con il sangue di San Gennaro, la cui miracolosa liquefazione può avvenire a Napoli almeno due volte all'anno, non potrà essere baciata dai fedeli. Verrà mostrata e solo a richiesta posta sulla fronte. La festa di San Gennaro è dunque salva. Vedremo se senza baci manterrà lo stesso pathos di sempre. Intanto, sempre a Napoli, arriva una singolare protesta di circa 200 autisti dell'azienda mobilità della città partenopea che hanno protestato appunto per le pessime condizioni igieniche dei loro autobus e quindi hanno detto insomma che più sono sporchi gli autobus più c'è il rischio di contagio dell'influenza. Quindi l'influenza ha influenzato, scusate il gioco di parole, questa protesta degli autisti della società mobilità di Napoli. Tutto questo peraltro invece poche ore dopo le rassicurazioni che erano arrivate dal vice ministro del welfare che ha la delega sulla sanità, Fazio. I dettagli con Anna Marino. Una riunione dedicata proprio ad affrontare l'emergenza dell'influenza A/H1N1. Fa il punto il vice ministro della salute Ferruccio Fazio. L'allarmismo eccessivo, l'influenza A/H1N1 è più leggera di quello che si poteva pensare, non ci sono motivi di preoccupazione. La scorsa settimana i casi erano 5.600, mentre oggi sono circa 7.000, ma ferma Fazio. L'influenza c'è. Forse possono anche essere di più, il che forse è un buon segno perché vuol dire che sono leggeri, che sono addirittura subclinici. L'influenza si conferma leggera, si conferma con sintomi molto lievi, in alcuni casi forse nemmeno avvertiti dai pazienti. Credo, rassicura il Vice Ministro, che siamo realmente attrezzati per prevenire l'influenza A, per l'accesso iniziale e per i casi di polmonite. Comunque, ha spiegato, secondo gli esperti, alla fine i casi gravi nel nostro paese saranno al massimo un paio di centinaia. Tanto che l'anno scolastico 2009-2010 inizierà regolarmente, come ha rassicurato il Ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini. Si attendono i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, come quelli per donne in gravidanza e per i soggetti al di sotto dei 18 anni. Si partirà comunque il 15 novembre o anche prima, se il vaccino sarà già disponibile. L'ottavo giorno. Di nuovo insieme, seconda parte dell'ottavo giorno. Abbiamo preannunciato qualche novità in questa nuova edizione del programma e quindi, visto che questa seconda parte sarà interamente dedicata alla politica italiana e ce ne sono molte da dire e da raccontare, anche se sono passati soltanto 7 giorni e questi sono legati al nostro racconto, però insomma per far questo ci avvaliamo non soltanto dei servizi già trasmessi nei GR di Radio 24 in questa settimana che riascolteremo, però avremo anche un modo in più per approfondire ulteriormente le notizie grazie ad un commento in studio di un ospite che mi ha raggiunto e che Saluto caldamente Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, quindi segue anche da vicino la politica dentro, attorno il Vaticano, segue di riflesso anche la politica italiana che guarda spesso oltre Tevere. Ti chiedo, prima poi di introdurre il primo servizio di questa parte dell'ottavo giorno, uno sforzo così da titolista, un estremo sforzo di sintesi. Se tu dovessi scegliere proprio la notizia politica più importante della settimana, vediamo se siamo in sintonia con la nostra scelta, quale sceglieresti? Beh, l'escalation di Berlusconi su tutti i fronti. Quindi le metti tutte insieme le cose, tante che ha detto Berlusconi. Sai, una in particolare che ti ha colpito di più o che comunque secondo te potrebbe avere dei riflessi maggiori nelle prossime settimane? Ma quella sulla giustizia sicuramente. Perché è un fatto che ha tradizione su Berlusconi. Che lui attacca i giudici, però anche qui ha alzato il livello dello scontro a livelli forse poco conosciuti fino ad oggi. Allora, devo dire che siamo d'accordo, perché il primo servizio che riascoltiamo tocca proprio questo nervo scoperto storicamente, insomma, della discesa in campo di Berlusconi, cioè la giustizia, il rapporto con i magistrati, le toghe rosse, i processi contro lui, perché insomma Berlusconi ne ha dette davvero molte in questa settimana, ha offerto titoli quasi ad ogni ora. Direi insomma che dal punto di vista anche scenografico lo show più incredibile è stato quello con Zapatero giovedì alla Maddalena, però appunto la vicenda di martedì quando era a Milano e ha toccato alcuni processi per mafia, direi che forse la più significativa, la più corposa su cui cominciare la nostra riflessione. Allora ascoltiamo il servizio di Raffaella Calandra di martedì proprio su Berlusconi a Milano e poi ragioniamo in studio. Sistemata la cravatta, scatta dalla sedia Silvio Berlusconi e scende nella sua arena. Ci attaccano come una mandria di tori inferociti. Qui c'è un torero che non ha paura di niente. L'intervento davanti agli imprenditori del tessile diventa così tutta una carica per ribattere alle accuse e lanciarne alle procure che indagano sulle stragi di mafia, sminuire le tensioni nella maggioranza e infilzare l'opposizione. Punta il dito Berlusconi contro i cattocomunisti che vogliono lo stato di polizia tributaria e contro chi vede a rischio la libertà di stampa. I dittatori di solito primo operano la censura, secondo chiudono i giornali. Qua così invece vedete che la libertà di stampa è diventata libertà di mistificare, di insultare. Questa non è propriamente una dittatura. Scherza sulla sua salute come sulla sua moralità e approfitta di un lapsus tra Tendopoli e Tangentopoli per dire che aspetta con interesse l'inchiesta di Bari, ma quella sul centro-sinistra perché sono stufo di prenderle soltanto. È in tema di mafia invece che rinnova le sue bordate alla magistratura. Ci sono fermenti, appaiono di procure a Palermo, a Milano, che ricominciano a guardare a fatti del 93. Follia pura. Quello che mi fa male è che della gente così, con i soldi di tutti noi, faccia cose cospirando contro di noi. Sono le dichiarazioni del neo collaboratore di giustizia Spatuzza ad aver dato nuovo impulso a vecchi fascicoli sulle stragi di mafia. Caro Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore in studio con noi per commentare la politica, vorrei partire proprio dalla coda del servizio che abbiamo risentito dalla redazione del GR di Milano, cioè questi processi, queste vicende delle procure, soprattutto di Palermo e Milano, quindi si torna ai processi di mafia di 15 anni fa che preoccupano Berlusconi. Torna in ballo anche un processo non ancora finito a Dell'Utri, quindi indirettamente coinvolto anche come persona vicina a Dell'Utri lo stesso Berlusconi. A che punto siamo? Si pronuncia davvero un autunno caldissimo tra Berlusconi, magistrati, CSM? Ma naturalmente il filone mafia o presunta tale di Berlusconi e di alcuni suoi più stretti collaboratori è il tema che lo ha sempre più preoccupato. Siamo a un livello ben diverso da Bari, Escort e quant'altro. Esattamente questo. Qui è tutt'altra musica. È un salto di qualità, un salto che c'è sempre stato, perché su queste questioni Berlusconi c'è sempre stato di mezzo. Da quando lui è in politica, queste vicende di mafia, ricorderemo Mangano, questo stalliere famoso. Cioè, queste sono storie che vanno avanti. Poi le stragi del 93, se li ricordiamo, specialmente per chi abitava insomma a Roma e a Firenze, questi sono temi che si ricordano bene. Quindi diciamo così, Berlusconi ha messo insieme tre o quattro livelli, di cui quello della mafia o presunta tale è quello più grave per lui naturalmente, perché quello mette in dubbio una serie di questioni gravi per l'impalcatura stessa anche del suo, della sua formazione politica, perché mentre la questione escort può far arricciare il naso alla gente per la strada, ai padri di famiglia o chi per altri. Siamo sul piano morale, non penale, come peraltro la procura di Bari ha tenuto a precisare. Esatto, al momento, poi ci saranno dei risvolti, di opportunità, però qui è una questione molto più profonda, poi vera, presunta, insomma, non si è mai capito, insomma, ancora le questioni sono in corso. discorso. Però lui mischia tanti temi, proprio in questo minuto che abbiamo ascoltato il servizio della collega, e mette insieme sette cose, mette insieme i dettori rossi che fanno questo, ma la libertà di stampa, i giornali che dovrebbero chiudere ma che non chiudono, cioè, tutta una serie di questioni che indicano anche oggettivamente che l'uomo è in difficoltà. Naturalmente queste parole pronunciate da Berlusconi non sono rimaste nel vuoto, perché si sono subito scatenate le reazioni, compatta e prevedibile la risposta della magistratura, contraria naturalmente alle tesi di Berlusconi. Però per esempio negli ultimi giorni il CSM ha fatto quadrato con i magistrati, e poi, e questo forse è un altro elemento che può stupire, lo stesso ministro della giustizia Alfano ha cercato un po' di disinnescare lo scontro, insomma ha cercato di fare un po' sponda anche con i magistrati, parole proprio pronunciate ieri. Su questo che cosa ti senti di dire? Alfano è considerato della ristrettissima cerchia di Berlusconi, però allo stesso tempo più o meno tutti gli riconoscono un certo equilibrio, una persona, un siciliano che non è mischiato col gruppo di potere che da 10 anni circa in Sicilia comanda, quello insomma storico di Berlusconi. Ed quindi è le nuove leve siciliane. Una nuova leva che dopo il lodo Alfano era stato considerato, uno dei tanti che insomma del gruppo di Berlusconi che fa le leggi ad hoc, non ad hoc, cioè, invece evidentemente l'uomo si rende conto, Alfano, che non è così, e questo fatto che si sia preso distanze da queste dichiarazioni indica evidentemente che le diverse sensibilità del partito di Berlusconi stanno venendo fuori anche all'interno della sua ristretta cerchia, quindi senza arrivare a Fini o altri, ecco. Certo, scendiamo un attimo di livello. Abbiamo detto insomma che la vicenda di Bari è tutt'altra rispetto a spettri di mafia e altro che potrebbero evocare certe inchieste di Palermo e Milano. Si è tornato a parlare con prepotenza in questi giorni delle intercettazioni di Bari che riguardano Berlusconi ma anche esponenti del PD. Davanti a Zapatero giovedì Berlusconi ha detto di non aver mai pagato una donna in vita sua, però in questi giorni Corriere della Sera e Repubblica soprattutto sono tornati a battere su questo tasto. Allora sentiamo un servizio di metà settimana da Bari del corrispondente Giovanni Longo. Nel giorno in cui il Corriere della Sera ha pubblicato i verbali dell'interrogatorio di Giampaolo Tarantini, a Bari si è insediato il nuovo procuratore della Repubblica Antonio Laudati, che ha parlato di un rapporto anomalo tra una struttura degli inquirenti e una dell'informazione. Tarantini nell'interrogatorio conferma con più ampi dettagli quanto era già stato pubblicato dal maggio scorso attraverso interviste alle ragazze che tramite lui erano state impegnate in feste nelle residenze del premier o come Patrizia Daddario si erano fermate per la notte con Silvio Berlusconi, un'attività bipartisan quella dell'imprenditore dal momento che oltre Berlusconi, ignaro del fatto che venissero pagate a beneficiare della compagnia delle giovani donne, c'era anche il vicepresidente PD della regione Puglia Sandro Frisullo, dimessosi a luglio. Non mancano i riferimenti alla cena elettorale del 2007 nel ristorante barese La Pignata, da cui in molti si smarcano. Non conosco Tarantini, ha detto Massimo D'Alema. L'unica volta che l'ho incontrato è stato a quella cena, ha detto il sindaco di Bari Michele Emiliano. Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile, ha ricordato: l'imprenditore che mi ha presentato non ha venduto neanche una matita o un cerotto. Abbiamo sentito il servizio da Bari sulle intercettazioni sempre pruriginose che riguardano Berlusconi, il presunto giro di escort a Roma e in Sardegna nelle residenze del Premier, però la Procura di Bari ha precisato che non c'è nulla di penale che coinvolge Berlusconi. Allora di cosa stiamo discutendo se penalmente non c'è nulla di rilevante nei confronti di Berlusconi? Cioè, ti chiedo da giornalista se allora è giusto insistere, come fanno certi giornali, su queste vicende o sarebbe meglio spostare l'attenzione su altro? No, ma naturalmente la questione c'è e ha la sua gravità di opportunità politica. Un presidente del Consiglio che ha un tipo di condotta privata, al di là di quello che fa nel privato, che come si dice è una cosa privata, però poi è soggetto a ricatti, chi è che frequenta queste stanze. Palazzo Grazioli notoriamente è una Palazzo Chigi 2 dove si prendono delle decisioni, a volte anche discutibili, come sappiamo, delle nomine eccetera. Però al di là di questa questione qua, e secondo me la questione delle escort è comunque alla sua gravità, perché poi la stampa la rende visibili. Però, anche la stampa estera ultimamente, stampa sono inglesi, spagnoli, sono scatenati, anche sì, con un pregiudizio nei confronti dell'Italia. Allora, però la stampa estera ci sguazzano. Non sanno cosa scrivere, parlano male dell'Italia, anche quando non c'era Berlusconi, perché insomma ce lo ricordiamo, il Financial Times è uno dei suoi temi preferiti, è parlare male dell'Italia, insomma, o anche dei giornali tedeschi, cioè, nonostante noi invece abbiamo grande rispetto e attenzione per loro. Ma sulla vicenda delle escort vorrei dire che soprattutto la Daddario, che aveva insomma... si era messa in testa di rovinare l'uomo più potente d'Italia, Insomma, c'è stato un momento che ha avuto una sua, come dire, un suo appeal. Poi ha cominciato ad andare in discoteca, a fare le serate, a girellare per le cose. Si è sgonfiato. Sì, appunto, cioè anche se poi magari c'ha delle carte o delle registrazioni vere o presunte, non so bene, però si è trattato di una si voleva fare pubblicità come Noemi, che lei forse più come dire, non volendo, però ora poi balla intorno alle passerelle di Venezia, cioè questo gli interessava, ecco. Allora, il tempo è volato, però insomma volevo una battuta rapidamente invece su un'altra vicenda centrale di questi giorni, il rapporto che appare logorato o comunque in difficoltà tra Fini e Berlusconi. Prima Berlusconi ha cercato di dire no, non c'è nessun problema con Fini, poi Fini lo ha praticamente sbugiardato pubblicamente, ha detto no, invece i problemi ci sono, quindi si attende una lunga conversazione, una lunga chiacchierata tra i due. E Fini insomma ha usato parole pesanti, ha parlato di stillicidio anche nei suoi confronti. Secondo te su cosa si gioca la partita tra Fini e Berlusconi? Le questioni etiche, l'eventuale presidenza della Repubblica che per qualcuno è il sogno di Fini, la scelta dei candidati per le regionali? Cosa in ballo? Naturalmente tutto questo, di tutto un po'. Il percorso di Fini viene un po' da lontano, perché già nel 2005, quando ci fu il referendum sulla procreazione assistita, no, Fini andò a votare e ci fu il primo piccolo strappo. La prima crepa, si ricorderà all'epoca che lui e la ministra di queste questioni, che era la Prestigiacomo, che erano i due, insomma, che nel... Diciamo, battitori liberi, battitori liberi che avevano posizioni eterodosse sulle questioni etiche, su cui invece l'allora Forza Italia e ora Popolo di Libertà è schieratissima con la Chiesa. Quindi questo è un po' il tema. Sì, si giocherà un po' tutto. Certo, Presidenza della Repubblica, tutto è possibile. Se c'è un ex comunista, chissà, forse un giorno. Anche se mancano ancora molti anni. Su questa sospensione ci fermiamo. Io ringrazio dell'intervento, della Cume, anche nelle sue riflessioni, Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, ma anche dentro la politica italiana come giornalista. Grazie Carlo. Grazie a voi. Ci risentiremo sicuramente presto. L'ottavo giorno. Rientriamo in studio per la terza parte dell'ottavo giorno. Abbiamo dedicato un lungo spazio doveroso alla politica, agli impeti, diciamo così, di questi giorni. Adesso ci infiliamo a testa bassa nella girandola di numeri che invece ci ha offerto la settimana economica, perché in molti, dalla Banca Centrale Europea alla nostra Confindustria, si sono cimentati nelle previsioni, in studi per capire insomma il presente e soprattutto il futuro prossimo dell'economia. Naturalmente io non sono un esperto, non mi addentro in pareri su quello che hanno detto sia la Banca Centrale che la Confindustria, però mi limito ad una impressione, perché mi sembra che tutti abbiano una giusta, giustificata voglia di uscire dalla crisi, di lanciare anche segnali positivi, e in molti li hanno visti questi segnali di luce in fondo al tunnel. Però insomma l'importante è non farsi prendere né da un eccessivo ottimismo né da un inutile pessimismo. Comunque cominciamo a sentire questi numeri con le previsioni della Banca Centrale Europea lunedì nel servizio di Valentina Furlanetto. L'uscita dalla crisi è vicina, ma la strada per arrivarci potrebbe essere ancora accidentata. Sembra orientato a un prudente ottimismo il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, che nella veste di presidente del Global Economic Meeting ha tracciato ieri un quadro in cui le luci cominciano a prevalere sulle ombre. Alcuni indicatori economici sono andati meglio di quanto previsto, ha detto Trichet, al termine degli incontri fra banchieri centrali del G10 che si sono tenuti a Basilea, nella sede della Banca dei Regolamenti Internazionali. Ma, ha continuato il banchiere francese, data l'entità della recessione attraversata, non si possono escludere possibili ricadute. Fra i rischi ha citato gli squilibri economici globali, ma anche il protezionismo sempre in agguato. Intanto l'agenzia di rating Moody's prevede per quest'anno una contrazione del 4,4% per la nostra economia, mentre per l'anno prossimo si stima una crescita dello 0,1%. La valutazione è la più ottimistica fra quelle apparse finora, elaborate sia da istituzioni internazionali come l'FMI o l'OCSE, sia nei documenti ufficiali del governo. Abbiamo sentito Trichet e anche le previsioni di Moody's, mentre mercoledì giunge la previsione del Centro Studi di Confindustria, come sempre dettagliata l'analisi di Confindustria. Si parla testualmente di germogli di ripresa, meglio di niente, però non è il caso di farsi prendere dall'entusiasmo. Alessandra Schepisi. Lenta, lunga e insidiosa, l'uscita dalla crisi sarà un percorso a ostacoli, secondo il centro studi Confindustria, che rivede in leggero rialzo le previsioni economiche dello scorso giugno, con un PIL 2009 a meno 4,8% e a più 0,8% nel 2010. Ci sono germogli di ripresa, ma i nodi della crisi restano, secondo gli industriali, e i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di molte aziende. Il presidente di Confindustria, Marcegaglia. Forse siamo fuori dal tunnel della recessione, ma la crisi non è finita e avremo davanti un periodo ancora lungo per poter tornare ai livelli di produzione che abbiamo avuto prima della crisi. E poi l'allarme occupazione. Secondo Confindustria, negli ultimi due anni sono stati persi 700.000 posti di lavoro e potrebbe non essere finita. Così commenta il ministro del lavoro Sacconi. Noi dobbiamo tenere la guardia alta sull'occupazione e soprattutto fare in modo che coloro che sono costretti all'inattività possano mantenere competenze e riconvertirle magari anche per altri lavori. La stessa Confindustria è nei giorni scorsi protagonista a Cernobbio, in quello che è il tradizionale appuntamento sul lago con il forum Ambrosetti. Torniamo infatti indietro a quasi una settimana fa, domenica scorsa, all'incontro tra la numero uno degli industriali Emma Marcegaglia e il segretario della CGIL Epifani. Il racconto dall'inviato a Cernobbio, Stefano Totoro. Prove di dialogo fra Confindustria e CGIL. Difficile dire che lo strappo consumato negli ultimi mesi in materia contrattuale sia ormai alle spalle, ma fra gli industriali e il sindacato dei lavoratori, in vista di una stagione difficile sul fronte economico e occupazionale, sembrano aprirsi, seppur timidamente, degli spiragli. Emma Marcegaglia definisce costruttivo l'incontro avuto con Guglielmo Epifani al workshop Ambrosetti. Alla CGIL lancia un appello: dobbiamo far prevalere, dice il presidente degli industriali, quello che ci unisce e non quello che ci divide. La CGIL è un grande sindacato. È evidente che se ci fosse la volontà, e da parte nostra c'è, insomma, di favorire un ringresso della CGIL, chiaramente la stessa volontà ci deve essere anche da parte della CGIL. Questo sarebbe, credo, un fatto positivo. Servono fatti, non parole, replica Epifani, che però non chiude la porta al dialogo con Confindustria. Noi avremmo un interesse tra noi e l'impresa a chiedere assieme che non si licenziano i lavoratori. Poi abbiamo un tema che ci divide, cioè il modello contrattuale. Noi abbiamo avanzato delle critiche che rispetto alle nostre osservazioni Confindustria rifletta e faccia qualche passo in avanti. Nelle stesse ore in cui va in scena il tentativo di digelo tra la Marcegaglia ed Epifani, sempre a Cernobbio parla anche il ministro dell'economia Tremonti. Il bersaglio principale delle sue parole sono le banche. Parole dure quelle di Tremonti, che tra l'altro due giorni dopo esattamente, Berlusconi cerca di smorzare, invitando invece a non gettare la croce sulle banche. Quindi staremo a vedere se il braccio di ferro con le banche, tra governo e banche, andrà avanti o meno nelle prossime settimane. Intanto riascoltiamo quello che dice Domenica Tremonti in questo servizio di Vincenzo Miglietta. La crisi economica è come uscirne. Il ministro Tremonti guarda al futuro, rassicura famiglie ed imprese sull'impegno del governo, punta però poi di nuovo il dito sul sistema creditizio che, a detta del titolare del tesoro, non farebbe abbastanza. Alla vigilia di un autunno che preoccupa le parti sociali, Tremonti rivendica quanto fatto dall'esecutivo, a partire dal nodo della disoccupazione. Chi punta sullo sfascio sbaglia, spiega il ministro. Noi abbiamo una quantità di fondi per gli ammortizzatori sociali che non potete immaginare. Non c'è alcuna ragione di preoccupazione, di paura sul periodo che abbiamo davanti. Se ci sarà bisogno, i soldi ci sono, oltre quello che potete pensare. Abbiamo messo tutto su questo, dice ancora Tremonti, perché per noi la priorità sono il lavoro, le famiglie e le imprese. Le risorse sono sufficienti, aggiunge. Per il 2009 ci sono 8 miliardi di euro. Altro capitolo, le banche. Questa volta Tremonti parla dei bond studiati dall'esecutivo per rafforzare il credito. Se gli istituti prendono i bond, spiega il ministro, non fanno un favore al governo ma alle imprese e all'economia. Torniamo a sentire, a leggere, a interpretare un po' di numeri della crisi. Non poteva infatti mancare all'appello l'Istat con i suoi dati sul PIL nazionale, dati che ci vengono comunicati giovedì. Ecco le cifre e i commenti raccolti da Anna Marino. Continua ma rallenta la contrazione del PIL. Il prodotto interno lordo del secondo trimestre rispetto al primo è diminuito dello 0,5%, mentre la differenza tra i due trimestri precedenti era stata 5 volte più pesante. La conferma è dell'Istat, secondo cui però è ancora forte la diminuzione del PIL rispetto a un anno fa, del 6%, il dato peggiore dal 1980. E l'Italia cala di più rispetto a Eurolandia, come sottolinea Alberto Quadrio Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano. altri paesi come Francia e Germania nel secondo trimestre del 2009 hanno già manifestato un segno più del PIL. Quindi, a mio avviso, come peraltro reputano anche organismi importanti come la BCE, la ripresa è iniziata. Secondo la Banca Centrale Europea, infatti, nel terzo trimestre 2009 il prodotto interno lordo di Eurolandia si dovrebbe ancora stabilizzare e la ripresa sarà molto graduale. Allora, abbiamo superato ormai la metà del nostro programma, ci avviciniamo lentamente alla parte conclusiva e cerchiamo quindi di alleggerire un po' i toni dopo queste notizie più o meno confortanti sull'economia. Tra poco, nell'ultima parte, l'ottavo giorno, apriremo un'ampia finestra su Venezia. Invece adesso ci concediamo una bella sventagliata di sport, perché insomma ne sono successe molte in questi giorni. Cominciamo dal calcio. Oggi, tra l'altro, per gli appassionati torna la Serie A dopo due giornate, tra l'altro, che hanno già sconvolto il campionato. C'è la Juventus a Ponte Giopiano, c'è l'Inter reduce dal trionfale derby con il Milan, c'è la Roma che ha perso il suo allenatore forse più spumeggiante, Spalletti, con l'arrivo peraltro graditissimo di Ranieri, che torna a casa nella sua Roma, nella sua città. Però intanto tra sabato scorso e mercoledì ci sono state due partite chiave e altrettante vittorie dell'Italia di Lippi, che ormai è quasi qualificata per i mondiali del 2010 dell'anno prossimo in Sudafrica. In Georgia abbiamo vinto 2-0 con due autogol del milanista Calazze. Sicuramente più bella e più spettacolare la partita di mercoledì a Torino contro la Bulgaria. L'inviato proprio a Torino, Massimo Di Scienza. Missione compiuta. Il commissario tecnico Lippi aveva chiesto la vittoria e la Bulgaria è stata battuta per 2-0. E magari anche un pizzico di bel gioco, tanto per zittire i più scettici. Ed anche l'estetica in qualche tratto della gara è stata accontentata. Italia bella, soprattutto nel primo tempo e quando è riuscita ad accelerare sulle fasce. I gol di Grosso all'11esimo su assist di Pirlo e di Iaquinta al 39esimo dopo un dai e vai con Gilardino sono arrivati tutti da sinistra. Qualche cosa ha rischiato questa Italia bella, ma a metà. Ma Buffon è stato ancora una volta attento. Da applausi la prova di Claudio Marchisio alla seconda presenza in azzurro, ottimo per personalità. Di questo passo sarà un titolare certo della squadra che Lippi porterà ai mondiali. In classifica Italia 20 punti più 4 sull'Eire del Trap. Il 10 ottobre a Dublino, senza lo squalificato Cannavaro, basterà un pareggio per qualificarci ai campionati del mondo di Sudafrica 2010. Sono tante le storie di sport che arrivano in questi giorni. Dal tennis, per esempio, c'è la favola di Flavia Pennetta, la prima italiana ad entrare stabilmente nelle prime 10 al mondo, nella top 10 ambitissima. Flavia Pennetta è andata anche molto bene agli US Open di Flushing Meadows, dove è arrivata ai quarti di finale. Si è purtroppo dovuta arrendere, ma insomma, difficile pensare al contrario, a Serena Williams. Intanto, recente notizia che riguarda la 18enne Semenya, cioè la sudafricana che ha vinto l'oro ai mondiali di Berlino di atletica negli 800 metri. C'era stato il lungo dibattito, la lunga querelle sul sesso della Semenya, se fosse donna o meno. Le ultime dicono addirittura che potrebbe essere un ermafrodito e quindi sicuramente la polemica rimarrà aperta ancora per molto. E poi ci sono i motori, perché domani a Monza si corre il Gran Premio di Formula 1 più atteso dagli italiani e soprattutto dal popolo ferrarista. Tra l'altro c'è dopo tanti anni finalmente un italiano al volante e le prime mosse, le prime curve di Fisichella a Monza sono state davvero incoraggianti. Giovedì invece aveva parlato della Ferrari Montezemolo il presidente e soprattutto si era soffermato su un pilota invece che non c'è purtroppo sulla Ferrari di questi tempi, cioè il brasiliano Felipe Massa. Tutti ricordiamo il terribile incidente in Ungheria con il rischio addirittura di perdere l'occhio. Ecco le parole incoraggianti di Montezemolo su Massa dette giovedì a Monza. Sono molto contento delle notizie delle ultimissime ore, nemmeno giorni, della ripresa di Felipe, che ha rappresentato per noi un grande, grande interrogativo umano e professionale, perché fino a pochi giorni fa non sapevamo se Felipe poteva continuare a fare il pilota. Oggi sappiamo non solo che continua a fare il pilota, ma che sarà al 100% in forma per la prima gara del prossimo anno, e queste sono le cose che oggi diciamo, né di più né di meno. E visto che parliamo di motori, non possiamo dimenticarci delle moto e del mondiale di motociclismo, perché domenica scorsa a Misano Rossi ha colpito ancora l'ennesima vittoria del campione pesarese, ormai una garanzia, si riavvicina al mondiale ambitissimo che sta contendendo a Lorenzo. Sentiamo la cronaca della gara di Misano, proprio dalla Romagna, con Fabrizio Cantù. Come in Olanda, Valentino Rossi ha fatto il metronomo, ha vinto a Misano il Gran Premio di San Marino davanti al suo pubblico per usura, costanza e qualità. Auteonico, dopo Indianapolis, al punto di definirsi un asino e correre con un somaro dipinto sul casco, Rossi ha dimostrato freddezza e spietatezza nel mantellare tutti gli avversari. Tre sono caduti la prima S, De Angelis ha colpito Ido a Teheisen, mentre Pedrosa ed Elias, dopo una sforiata iniziale, sono stati superati in modo implacabile ed anche Lorenzo, che aveva superato Rossi, si è dovuto arrendere. Proprio lo spagnolo, veloce, maidomo, ma rimasto troppo a lungo dietro a Pedrosa, è stato costretto a fare l'elastico fino alla fine, dietro un Rossi intrattabile, sempre con un decimo al giro in tasca per tutto il weekend. Vittoria numero 103 per Vale e più 30 punti di vantaggio nel Mondiale. Pedrosa terzo ha preceduto Dovizioso e Capirossi. Nella 250 delusione per Simoncelli, caduto e vittoria per Barberà in volata su Pasini e Bautista. Terzo in volata su Aoyama. Nella 125 botto in volata causato da uno scriteriato Iannone che elimina Espargarò e ne approfitta Giulio Simon che vince ed è a un passo dal titolo. L'ottavo giorno. E allora eccoci qua di nuovo insieme per l'ultima parte dell'ottavo giorno, questa prima puntata della nuova edizione. Ci siamo infiammati nelle parti precedenti del programma con la politica, abbiamo un po' riflettuto anche sui numeri dell'economia che sono finiti in circolo in questa settimana e ora, dopo una bella sventagliata sullo sport, cerchiamo un po' di tirare il fiato e appunto per questa parte conclusiva del programma ci concediamo, permetteteci, una pausa di evasione, diciamo così, con la nostra Marta Cagnola, inviata di Radio 24 alla mostra del cinema di Venezia, dal Lido. Buongiorno Marta. Buongiorno Emiliano. Beh, insomma, non tanta evasione, visto che parliamo tantissimo di politica anche a Venezia. Eh sì, infatti tra un po' la metterò sulla politica anche per quello che riguarda Venezia. Intanto ti vorrei chiedere, insomma, visto che è una decina di giorni che i nostri ascoltatori ti sentono un po' a tutte le ore, dal vivo, in diretta, in differita, in ogni GR, se a Venezia, come credo, vale la migliore e più dura legge dei festival, tra proiezioni, cene di gala, caccia ai VIP... Mi sai che hai dormito molto poco in questi giorni, o mi sbaglio? Quasi nulla. Quasi nulla, quindi devi recuperare da domani. Il primo film inizia molto presto la mattina e l'ultima proiezione inizia molto tardi la sera. Però diciamo che lo sforzo vale sempre la pena, no? In questi casi. Assolutamente sì. Allora, prima di parlare di quello che poi dovrebbe contare veramente in un festival, cioè la qualità dei film, come anche tu hai subito annunciato, la voglio buttare in politica, perché insomma... In ordine sparso a Venezia in questi giorni abbiamo visto un po' di tutti i colori, Berlusconi che esalta il figlio di Tornatore, che non è proprio un regista di destra o centrodestra, Chavez che è stato accolto come una star, forse con un eccesso di foga, diciamo così, negli applausi. Poi c'è stato lo sfogo invece di Michele Placido, che è il tipico attore, regista, autore italiano impegnato di sinistra, che però si è arrabbiato a sua volta con qualcuno che gli ha fatto notare che il film è stato prodotto dalla Medusa di Berlusconi. Abbiamo visto Noemi sfilare a Venezia, quindi insomma la politica è entrata a piedi uniti in questo Festival di Venezia. Politica italiana e politica anche internazionale, perché abbiamo parlato moltissimo di Iran, abbiamo parlato di tante questioni. Hai correttamente cominciato a parlare di Baria, che è stato proprio il primo film. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, aveva detto: consiglio a tutti di andarlo a vedere perché è un capolavoro e tutti gli italiani dovrebbero vederlo. Ora questo film era stato prodotto da Medusa, quindi forse un po' di conflitto di interesse. Ha tirato acqua al suo mulino, diciamo così. Perché no? E poi soprattutto dopo averlo visto, i malpensanti hanno detto che Berlusconi aveva celebrato questo film perché a un certo punto il protagonista va in Russia, torna e dice di avere trovato dei disastri, quindi insomma pare che anche questa parte sia stata molto apprezzata. Insomma, l'ossessione comunista di Berlusconi torna anche nel film di Tornatore. Se davvero l'ha visto Baria, noi non lo possiamo sapere sul serio se davvero si riferiva a questa frase oppure no. Prima polemica è subito sbloccata, perché poi c'è stata l'altra polemica per l'altro film italiano, Il grande sogno di Michele Placido, ancora prima che venisse proiettato, perché l'associazione di destra romana, un movimento abbastanza sconosciuto, ha imbrattato i manifesti del film a Roma invitando al boicottaggio. Tutto questo prima della proiezione del film. Dopo che il film è stato proiettato è successo un po' di tutto, Emiliano. Allora no, intanto vogliamo capire di che cosa parla il film, il grande sogno di Placido. Allora Marta, io ho recuperato una tua intervista di qualche giorno fa, prima poi della polemica dell'altro giorno di Placido in conferenza stampa. Allora riascoltiamo prima la voce di Placido al tuo microfono e poi parliamo dettagliatamente del film. È venuto fuori, penso, un film abbastanza singolare, che può essere anche spiazzante per alcuni punti di vista, che non è un film sul 68 da un punto di vista ideologico, quanto da un punto di vista soprattutto della formazione di tre ragazzi, un poliziotto, una studentessa cattolica borghese interpretata da Jasmine Trinca, il poliziotto Riccardo Scavaccio, che in qualche modo è legato alla mia esperienza di poliziotto, e poi c'è il personaggio di Luca Argentero, che è l'operaio studente di Torino che viene a Roma in quegli anni. Mi sembrava interessante porre una riflessione ai giovani di oggi, perché il film è soprattutto poi rivolto ai giovani di oggi, non agli ex sessantottini, perché tanto a distanza di qualche anno c'è chi lo rinnega, chi dice che è stato un fallimento, c'è chi dice che il 68 ha recato addirittura dei danni. Ora, io, il mio punto di vista è tutt'altro, anzi lo anticipo subito, è positivo, penso che il 68 è stato un anno meraviglioso. Allora Marta, ti chiedo subito una recensione del film e poi se il film contiene davvero questi elementi così disturbanti che per esempio hanno fatto arrabbiare molto i giovani di destra, come ci hai raccontato. Ma devo dirti che è un film onesto, non è un capolavoro, abbiamo visto dei film che veramente ci hanno emozionato in questa mostra del cinema, però è, secondo i critici stranieri, il migliore dei quattro film proiettati all'interno del concorso, questo proprio confrontando tutte le pagelle questa mattina, e quindi insomma Michele Placido non ha fatto romanzo kill criminale, però insomma ha fatto un film onesto, gli attori sono sicuramente migliorati perché Riccardo Scamarcio e Luca Argentero stanno diventando davvero bravi, Jasmine Trinca secondo me lo era già da prima, e per quanto riguarda le polemiche, ma insomma è davvero una storia autobiografica, anche perché si concentra sul 68 e non va oltre. Lo stesso Michele Placido ha detto: tutte le cose gravi che sono successe alla fine del 68 e dal 69 in poi, e lui non si è assolutamente occupato di questo, lui è rimasto sulla grande utopia, appunto sul grande sogno. Marta, ti chiedo un incredibile sforzo di sintesi perché abbiamo ancora un minutino, e in un minuto mi devi dire un paio di film per i quali secondo te questa mostra passerà alla storia, verrà ricordata, e poi un po' il classico gioco dei pronostici, chi vince e chi perde a questa mostra di Venezia. Allora, posso dirti che secondo me bellissimi i film di Todd Solondz, questo Lourdes che è stata un'assoluta sorpresa, Tom Ford è venuto fuori alla fine come outsider e delizioso, quando uscirà in sala dovete vederlo assolutamente tutti, il film di Fatih Akin, Soul Kitchen. Allora Marta, ci rivediamo in redazione, ti aspetto per vedere se poi i pronostici e i gusti verranno confermati, intanto ti auguro buon ultimo giorno di festival, visto che tra poche ore ci sarà anche l'attesa premiazione. Attesa premiazione, chissà se invece ce la farà Libanon, che poi è il più favorito nelle pagelle, vedremo. Buona giornata Marta, grazie ancora per il collegamento a Marta Cagnola, inviata di Radio 24 alla Mostra del Cinema di Venezia, che si sta per concludere proprio oggi, e noi invece chiudiamo la trasmissione odierna con un fatto della settimana raccontato in un servizio, perché mercoledì sera l'America si è fermata per ascoltare il discorso a Camere Unite pronunciato da Obama sulla attesa e controversa riforma sanitaria. Bisogna dire che, a sentire poi anche il parere dei sondaggisti il giorno dopo, gli americani hanno anche apprezzato le parole del presidente americano. Sentiamo invece il commento del corrispondente del Sole 24 Ore Mario Platero, come Platero ha sentito e ha visto il discorso di Obama. Toni retorici dannata quelli che ha usato ieri il presidente americano, ha detto ad esempio: non sono il primo presidente che si fa carico della riforma sanitaria, ma sono determinato ad essere l'ultimo. In questa sala, ha detto ancora, c'è un accordo sull'80% di quel che dobbiamo fare, il traguardo della riforma è più vicino che mai. In effetti, dopo il discorso di ieri notte, l'atmosfera al Congresso era elettrizzata, si è capito che molti repubblicani sono pronti ad aiutarlo a passare questa riforma, ma che per calcolo politico resisteranno. Barack Obama ha anche detto che sarà pronto al compromesso, a fare un passo indietro se necessario a una delle riforme a cui tiene di più, quella cioè di presentare una opzione pubblica. Ma Obama non si è limitato alla retorica, il suo è stato un intervento anche piuttosto dettagliato sul piano tecnico, ha presentato a sua volta una proposta, ha detto che il tempo delle polemiche è finito, il tempo dei giochi è tramontato, è arrivato invece il momento di unire le migliori idee. Ha formulato tre obiettivi: più sicurezza e stabilità per coloro che già hanno l'assicurazione sanitaria, una garanzia dunque per quella gran parte degli americani, 180 milioni, che temono che da una riforma potranno soffrire. Ha promesso assistenza a chi non ce l'ha e ha promesso di frenare l'aumento dei costi sanitari per le famiglie, le aziende e il governo. Con Obama e le sue speranze di chiudere in fretta o comunque in tempi ragionevoli la sua riforma sanitaria, si chiude la puntata odierna dell'Ottavo Giorno. Ringrazio Paolo Corleone in regia. Vi ricordo la mail a cui potete scriverci, ottavogiorno@radio24.it. Noi ci troviamo puntuali sabato prossimo, poco dopo le 9, oppure in replica alle 23, naturalmente sempre su Radio 24.